Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Come sapete, in questi giorni c'è in corso uno scandalo che offusca il secondo mandato di Obama e che non può che far sorgere delle preoccupazioni. Parliamo naturalmente delle rivelazioni di Edward Snowden, che sul Guardian ha svelato come i telefoni di circa 250 milioni di americani e anche molti altri cittadini stranieri siano costantemente tenuti sotto controllo dalla National Security Agency, la NSA. La sorveglianza in questo caso non entra nei contenuti, mentre ci entra un altro tipo di sorveglianza ancora più invasiva, quella sulle email, su social network e quant'altro, dove viene utilizzato un sistema sempre dalla NSA che addirittura si spinge ad analizzare il testo dei messaggi alla ricerca di parole chiave e ricorrenze sospette. Le finalità saranno senza dubbio buone, ma lo spettro del Grande Fratello è lì dietro l'angolo. Allora, questa sera vogliamo discutere un po' in quest'ottica di due delle parole chiave che abbiamo anche imparato a conoscere della Smart City: Open Data e Internet of Things. E la domanda che ci facciamo è in che misura queste nuove realtà potranno rappresentare dei punti di debolezza. Di tutto questo parliamo con Igor Falcomatà, esperto proprio di hackeraggio. Considerate che si è mantenuto durante gli studi facendo l'hacker che si fa pagare per trovare le falle nei firewalls, che sono dei sistemi di protezione informatica. Buonasera Falcomatà. Buonasera. Allora, in due puntate proviamo a raccontare un po' queste sensibilità nuove. Cominciamo con alcuni aspetti sensibili del cosiddetto e-government. No, ci sono lì dei problemi, tanto per cominciare, di coniugazione fra il diritto alla privacy e il diritto alla trasparenza delle istituzioni. Sì, diciamo che con le nuove direttive sulla trasparenza e le regole sulla trasparenza, la pubblica amministrazione deve pubblicare i dati, i suoi dati, i suoi open data, le sue delibere, tutte queste cose qua, ma questo potrebbe cozzare direttamente invece con la direttiva sulla privacy, che prevede la protezione dei dati personali, in particolar modo dei dati sensibili, dati sanitari. Faccio un esempio direttamente. Sì. Pensiamo per esempio ad una delibera in cui si assegnano degli alloggi popolari a famiglie indigenti, oppure magari c'è una graduatoria legata al reddito familiare, no? Esattamente, legata al reddito, o peggio ancora legata a specifici problematiche di salute e così via, o ancora per esempio una delibera che riguarda, non so, il trattamento sanitario obbligatorio, quindi persone che sono state trattate. Insomma, è quando gli infermieri arrivano a casa tua con la camicia di forza, sostanzialmente. È bene che non si faccia pubblicità, tu dici, a questo tipo di situazioni. Esattamente. Adesso queste sono solo alcune che mi vengono in mente così al volo, però ci sono sicuramente nella pubblicazione degli open data, nella pubblicazione di tutti i dati relativi alla PA, dei dati che sarebbe bene, diciamo, filtrare alla fonte. Filtrare. Anche questo ovviamente cozza invece con, certo, il motivo per cui si fanno gli open data, quindi la trasparenza. Certo. E qua, insomma, è chiaro che se io a pubblica amministrazione assegno un alloggio ad una persona e il nome di questa persona non è pubblicato, io invece cittadino che voglio verificare se effettivamente questa persona aveva più diritto di me, ho più difficoltà. Ho un problema. Senti, l'altro grande problema è invece legato al rischio che dei dati che si sa che non devono essere esposti, che non devono essere affatto open, siano comunque in qualche modo raggiungibili. Qui ci sono già dei segnali d'allarme di qualche tipo? Assolutamente sì, questo sia per quel che riguarda, diciamo, la pubblica amministrazione, sia per quel che riguarda qualsiasi tipo di dato informatico che ormai viene prodotto. Ma per farti un esempio concreto, recentemente a un convegno che si chiama e-privacy, che si è tenuto a Firenze il mese scorso, un ragazzo italiano, un ricercatore di sicurezza informatica, ha fatto una ricerca su tutta quella che è la gestione della cartella sanitaria online, quindi dati anche particolarmente sensibili. Dati sensibili per definizione, no? Quelli sanitari. Esattamente, e ha scoperto che la situazione non è rosea, nel senso che tutta una serie di strutture che mettono a disposizione la possibilità, destinata al singolo paziente o ai medici curanti, di consultare la cartella sanitaria online, in realtà per errori vari che vanno dall'implementazione a errori proprio nel software che pubblica queste informazioni qua, sono molto molto più liberali di quello che uno si aspetta. Cioè, ci sono degli errori sostanzialmente che creano come delle aperture, delle crepe nel sistema. Per esempio, uno entra con un'utenza che dovrebbe consentirgli di visualizzare solo i propri dati sanitari, ma scopre che cambiando a caso il numero del paziente, no? Gli visualizza anche quelle degli altri. Può succedere una cosa di questo genere, è un errore, però finché non ci si accorge, da lì si può passare e tirar fuori un sacco di roba. Esattamente, sì, questo è uno degli errori più comuni, ci sono proprio delle problematiche specifiche quando si sviluppa software, in particolar modo applicazioni web, c'è addirittura una top 10 che magari in altri ambiti, penso all'ambito finanziario, all'ambito bancario, ormai sono state affrontate dal 2000 che si parla di queste cose in poi. Cioè top 10, i 10 errori che non bisogna fare, tu dici, no? E che invece in questi settori della pubblica amministrazione meno blindati per cultura, diciamo, non sono ancora state ben capiti. Esattamente, esattamente. Il problema è proprio quello, cioè spesso mentre ci sono pratiche consolidate sia per scrivere i software sia per testarli prima di metterli in produzione, quindi prima di metterli online, in altri ambiti dove magari ci sono direttamente soldi in ballo, in questi ambiti dove spesso invece i soldi in ballo sono di meno, nel senso che anche le pubbliche amministrazioni hanno meno budget magari da dedicare a i test di sicurezza, queste cose qua, in questi ambiti purtroppo siamo ancora un po' alla preistoria. Va bene Facomata, per intanto grazie, ci fermiamo qui, riprendiamo la nostra conversazione domani. Grazie a voi, buona serata. A domani allora, vi ricordo che potete scriverci a smartcity@radio24.it, potete anche contattarmi su Facebook, mi trovate col mio nome Maurizio Melis. A voi tutti una buona serata.